sussurrò. Non l'allarme sfa, smantando una vocale che non ti si riesco già. Guardare se in questo lugare si conoscono nelle sfera. Non pensare che il dolore rifugiato se la pena credo che te ne assorberà. Estás desnuda, despejando tus dudas, a ver si puedo disparar y sonarme en ofensiva. Te obligaré a callar la sensación de agonía, la misma que algún día no irá a nuestra ciudad.